Mix 24 di Giovanni Minoli. Il sesso è qualcosa di speciale che dovrebbe accadere tra due persone che si amano. O tra due persone che amano il sesso. Quando si tratta di sesso ci vogliono fatti, non chiacchiere. Gli uomini non servono più per fare i bambini e non servono più nemmeno per fare sesso, come ho appena piacevolmente scoperto. Oh, sembra che qualcuno abbia comprato il suo primo vibratore. Non il primo, l'ultimo. E sono pazza di lui. Mi ha detto il padrone che fa il dog sitter? Ma parliamo di me, parliamo di te. Cosa fai di bello? Di bello niente, tutto quello che fanno le ragazze alla mia età. Ho 19 anni, mi prostituisco e prendo 250.000 lire a botta. Il conto! Dunque, il sesso al tempo della crisi. Secondo il Codacos, l'associazione dei consumatori, è un settore che non conosce crisi. Dal 2007 al 2014 il fatturato è cresciuto del 25,8%, arrivando a un giro d'affari di 3 miliardi e mezzo di euro. 90.000 operatori e 3 milioni di italiani sono coinvolti, che sono dati in crescita anche per il sesso online. Spopolano i siti, le pagine web, i portali con annunci specializzati. Ma se la prostituzione cresce, tutto quello che ruota intorno al mercato del sesso, dai sex shop alla pornografia, ai siti online, sente la crisi? Questa è la domanda. Pia Covre, che è un'ex lavoratrice del sesso, ha fondato insieme a Carla Corso nell'82 il Comitato per i diritti civili delle prostitute, una sorta di sindacato che si batte per l'abolizione della legge Merlin, la legalizzazione della prostituzione e il riconoscimento del lavoro sessuale. Ecco, signora Covre, quello del sesso è un mercato sempre più florido malgrado la crisi? Non è del tutto autentico, anche questo mercato risente della crisi economica. Sì. Certamente che in un momento di crisi e di povertà c'è, come dire, molta più offerta, molta più... Naturalmente, quindi... Senta, ma con l'arrivo di internet, quanto è cambiato il mondo del sesso? Beh, sicuramente è diventato più vasto e più agile, come dire, creare contatti, e questo favorisce chi ha le capacità, la possibilità di mettersi dietro, certo, un computer e di gestire la sua clientela così. Ma i siti sono controllati? Ma sì, io credo che siano controllati. Cioè sono legali? Sì. Ma legali sì, in quanto alcuni hanno sede in paesi dove questo commercio, questo mercato non è illegale, quindi non sono di per sé fuori legge. Dopodiché dipende probabilmente quali sfumature hanno, anche perché ci sono alcuni siti che vanno molto oltre il lecito, diciamo, per le questioni di tipo morale o di tipo appunto anche di inganno, di cose così, quindi io credo che sì, la polizia li controlla. Cioè li controlla. Ecco, i numeri raggiunti dal mercato del sesso comunque sono numeri incredibili, sono 3,6 miliardi l'anno, e che però non vengono considerate una voce attiva del PIL. Perché? Ma forse perché a molti paesi, un po' per moralismo, un po' per disinteresse o ignoranza, preferiscono lasciarli nelle mani di un mercato illegale, di una gestione semi-paracriminale a volte, perché sono grandi quantità di denari, e forse attraverso questa cosa non controllata si può far passare anche meglio tante cose. Ecco, signora Covre, alle prostitute viene chiesto di pagare le tasse su quello che guadagnano, ma senza il riconoscimento del lavoro svolto, è così? Sì, questo è un grosso limite, perché non può essere, dovrebbe essere un pari cascambio di diritti, quindi dovrebbe... Ecco, ma la prostituzione è legale o no? La prostituzione non è di per sé illegale in Italia, ma tutta una serie di norme che ci stanno attorno la criminalizzano un po', compreso le ultime norme che sono quelle degli amministratori locali con le sanzioni sulla strada, ad esempio. Cioè, che cosa dice la legge in materia di prostituzione in due parole? La legge Merlin è una buona legge, è stata una legge che ha liberato donne da casini e da giochi di controllo. C'è però da dire che il reato di favoreggiamento ha molto isolato queste persone che lavorano, quindi noi già da 20 anni, da più anche, chiediamo che venga decriminalizzata, quindi niente adescamento e niente favoreggiamento. Dopodiché si potrebbe anche pensare a tenere una legge semplicemente che non punisce e lasciar libero a tutti. Oggi però ci sono delle condizioni per cui sarebbe favorevole, cioè io sarei favorevole, penso che sia auspicabile legalizzare questo, un po' per controllare tutti questi grandi flussi di denari che altrimenti se ne vanno chissà come. E la seconda cosa, perché molte persone sono straniere e se una straniera per essere legalmente qui deve avere il permesso di soggiorno e questo è legato al permesso di lavoro, questo deve essere un lavoro. Senta, signora Covore, ma se una prostituta vuole esercitare liberamente il mestiere, quindi può farlo? Sì, teoricamente lo potrebbe fare, sì. Poi però potrebbero tirare Ma cosa deve fare? Può aprire una partita IVA? Sì, ma no, questa non gliela aprono. Si può andare all'Agenzia delle Entrate, abbiamo fatto delle sperimentazioni. L'Agenzia delle Entrate da un lato ti chiede, quando tu non paghi, ti dà la sanzione e ti dice da ripagare. Però se vai a chiedere la partita IVA per questa attività non te la dà. In realtà io credo che una potrebbe iscriversi senza dire che fa questo lavoro, servizi una persona, e potrebbe aprirsi una partita IVA così, ecco, una voce un po' ambigua, e poi pagare le tasse e a sua volta fare tutte le cose in regola. Tuttavia rimane sempre il fatto che se lei apre una casa di prostituzione, cioè se l'appartamento dove lei lavora c'è più di una persona, già questa è una casa di prostituzione ed è fuori legge. Certo, senta, ma sono tante le proposte di legge che sono state depositate in Parlamento, e tantissime per legalizzarla, però nessuna arriva alla fine, perché? Io credo che alcune, in Italia adesso abbiamo visto che stiamo facendo dei passi avanti, abbiamo ottenuto anche le unioni civili, purché non è ancora il matrimonio egualitario, sì. Forse arriveremo anche ad ottenere una legge sulla prostituzione, però ci sono molte pressioni e molte lobby che spingono per abolire la prostituzione, quindi per cancellarci. Ecco, ma se mai ci riuscisse, cosa significherebbe legalizzare la prostituzione secondo lei? Che non è che cambierà tutto da oggi a domani, che ci vuole una grande campagna di lavoro, di formazione, di preparazione anche. Perché per ottenere cosa alla fine? Per ottenere cosa alla fine? Per far cambiare un po' le abitudini, come dire, a stigmatizzare le donne, io spero, perché questo è, a noi pesa lo stigma sociale, l'esclusione sociale, le discriminazioni. Se noi abolissimo queste tre orribili cose, probabilmente non avremmo neppure bisogno di mettere mano a una legge, ci sentiremmo cittadine felici comunque. Ecco, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, per chi vuole intervenire sul tema della liberalizzazione, cioè della modifica della legge Merlino, oppure no. Ecco, Mario, tu che dici? Sei favorevole alla legalizzazione, sì, e quindi alla fiscalizzazione? Sì, certo, assolutamente. Perché sono un sacco di soldi, primo. 3,6 miliardi di fatturato, sì, sommerso. Sì, anche di più probabilmente, perché c'è una situazione di fatto da regolare, mi pare evidente, a meno che non ci si voglia proprio coprire gli occhi, certo, totalmente, facendo finta che non ci sia ipocrisia regnante. Appunto. È perché non c'è altra soluzione, perché si combatte così la criminalità in realtà, perché tu sai benissimo, come tutti quelli che ci ascoltano, che una parte della prostituzione, non tutta però, è gestita dalla criminalità per una questione di salute, di ordine pubblico. Vorrei ricordare che ci sono quartieri di Roma che hanno la prostituzione in strada, quindi potete immaginare che cosa significa, tanto per dirne una, visto che io ho il pallino ogni tanto di tradurre in economia le cose, i valori immobiliari. Certo. Di quei quartieri, come calano, come si deprezzano. In ogni caso, prostituirsi è illegale, questo l'abbiamo detto punto, con chiarezza, quindi, no? Quei 3,6 miliardi di fatturato di sommerso devono fare parte del paniere del PIL, secondo te? Sì, certo. Certo, d'altronde hanno introdotto anche gli affari della criminalità, quindi basta. Cioè, in quel pacchetto lì? Sì. Sì, è sempre la realtà che domina, che domina le cose. Tu esiste, punto. C'è un sacco di consumatori, non vedo il problema. Tu, Pietrangelo, che dici? Che dico? Dico che, ecco, farei così. Io affiderei ai nostri ascoltatori una pagina di poesia bellissima, meravigliosa, di Fabrizio De André, ma nella versione ancora più bella, vorrei dire, di Mario Incudine, affinché su questo tema ci si concentri sull'aspetto giocoso. Era chiamata Mucuzza di Ciuri, faceva l'amore, faceva l'amore, allo faceva di tutte manere, del capo, da sotto, davanti e d'arreri. Quando scendeva alla stazione, un paesaggio capicino, passando a tornare in un vecchio carose, cogne romano, cogne un barrino. C'è quello fa perché ci si gira, e c'è qui invece di cinebraia, Mucuzza di Ciuri nell'uno e nell'altro, per dire l'amore è una poesia. Ma la passione te fa giri, a fare le cose che fanno piacere, senza capire su disgraziato, e se tu schietto maretato. Io tu così che Dio giù domani, Mucuzza di Ciuri non ne avete più spasso, e c'è che tutto c'è che hanno arraggiato, ci è tono sarà più ergio passo. Ma le gommare non vai sergio, fai un tonno non ho più a fare, e mangio che perdo una carta allo scecco, se lo sacano solo lo sai. Cosa? Mario, ma è possibile, abbiamo sentito, che siano state depositate quasi 20 proposte di legge per legalizzare la prostituzione, però ancora niente di fatto, non si riesce... No. Beh, è strano, perché poi è una realtà, sì, l'abbiamo detto, talmente evidente. È una delle cose più divertenti dal punto di vista giornalistico che offre il Parlamento, me ne sono occupato tantissime volte per vedere a che punto stava la cosa. E discutono, arrivano anche quasi fuori dalla commissione, poi boom, esplode tutto. La realtà è che è un paese che vive ancora nel suo Parlamento, non fuori, perché se voi andate fuori è tutto un altro film il paese. Certo, fuori vive un'ipocrisia di tipo, diciamo così, cattolico, laddove in realtà la Chiesa ha una visione molto più progressista di quella di certi suoi presunti rappresentanti politici. Non solo, ma il paese reale, se, ripeto, se voi andate a chiedere, andate in giro a fare un piccolo sondaggino tra chi ha vissuto o vive questo tipo di problematiche nel suo quartiere, lo vede in giro, eccetera, e vedrete che è un paese molto più avanti di quello che si immagina. Tu parlavi di questione legata in qualche modo alla cultura cattolica di fondo, sì, del paese. Tu pensi, sì, Pietrangelo, che sia una questione... che siano lì le radici del problema? Le radici possono essere nel raddoppio di Allegria, niente di ipocrisia. Tant'è vero che sempre ad affidarsi alla sostanza vera delle cose, e quindi alla vulgata, e quindi voce di popolo e voce di Dio, sapete come si dice in Sicilia? Dove ci sono campane, ci sono... Completate voi la riga. Va bene, ok. Va bene, abbiamo capito. Senti, ma... va bene, ma scusa. Qui c'è chi ci scrive: se tassassero per la prostituzione aumenterebbero le tariffe, ma non era quello il discorso. È preoccupato. Comunque, no, è preoccupatissimo questo signore che, peraltro, posso dire, non si però ferma. Se poi lo Stato proibisce l'uso dei contanti, voi che fanno con la carta di credito? Sì. Max di Teramo dice: ma ce li vedete i clienti a farsi fare la fattura? Vabbè. Senti, comunque, Alberto D'Onofrio, che è un regista... Scusa, non posso dire di. I clienti che, per esempio, non lo so, guardano il soft porn su varie grandissimi network televisivi... Sì. Hanno la fatturazione anonima, quindi certo. Qual è il problema? Anche lì si trova sempre la soluzione. Sai che Mario sa tutto. Mario sa tutto. No, è perché mi tocca studiare. Perché è un giornalista, è un vero giornalista di costume. No, e quindi costume. Studia. In costume. Dicevo che Alberto D'Onofrio, che è un regista, un documentarista molto, molto conosciuto, ha raccontato l'eros e il sesso in alcuni dei suoi documentari. Ecco, cosa ha scoperto in quel mondo? Ma io ho approcciato questo mondo in maniera seria e distaccata, cioè volevo raccontare l'erotismo innanzitutto come fenomeno di costume attraverso le storie dei protagonisti, no, di questo mondo. Che ha incontrato in giro per il mondo. Ecco, sì, ma ho girato varie serie. Ed è cambiato molto il mondo e il mercato del sesso nel tempo? Ma io penso che... La cosa fondamentale sia questa: le ragazze che lavorano nel mondo dell'intrattenimento, insomma le spogliarelliste per capirci, si considerano artiste, ci tengono molto a essere considerate artiste dell'erotismo, non ragazze che si offrono ai clienti dopo lo spettacolo, o ragazze che fanno una vita particolarmente trasgressiva. Poi nessuno sa quale sia la verità, neanche un regista, che comunque non si riesce mai a oltrepassare quel limite. Però è la sensazione che ho avuto io era di essere entrato nel mondo dello spettacolo erotico. Ecco. E mi sembra che questo non sia cambiato, mi sembra che questa sia una costante anche nel cinema hard, anche quando fate documentari sulle artiste, come vedi che anch'io adesso le definisco artiste, le attrici del mondo art si definivano artiste. Lei, D'Onofrio, ha girato un documentario su Riccardo Schicchi, che era un famoso imprenditore del porno. Che esatto. Fine ha fatto il mondo della pornografia? È stato sconfitto da internet? Beh, Schicchi secondo me è stato il personaggio che ha portato in Italia il concetto di intrattenimento erotico, sia a livello di spettacolo sia a livello di cinema. Sicuramente internet ha mangiato molto dell'industria cinematografica e molte società sono andate in crisi e si fanno molti meno film di quelli che si facevano per esempio alla fine degli anni 90, quando ho girato quel documentario in America, Viaggio a Luci Rosse, appunto sull'industria pornografica americana e anche in Ungheria, no? Ecco, quel reportage lì sulla vita notturna nelle megalopoli, sì. Come ha visto trasformarsi la trasgressione rispetto a quel momento? Ma in quel momento forse c'era ancora un po' più di curiosità, proprio perché non c'era ancora internet che poi ti offriva tutto. Tutto gratis, e confondeva anche, perché gli ultimi fatti di cronaca ci segnalano che l'accoppiata sesso e droga è sempre più comune, con risvolti molto tragici. Questa deriva è una deriva che arriva dal rapporto fra il reale e il virtuale? Ma secondo me sesso e droga è come la musica elettronica e la droga, cioè è un problema di confusione, la gente confonde la trasgressione a base di droga con la trasgressione erotica o con una notte passata in discoteca, cioè è proprio un clamoroso errore culturale che molti continuano a fare. In realtà sono mondi assolutamente separati. Senta, se uno cerca l'intrattenimento erotico dovrebbe affidarsi alla magia di queste ragazze che riescono a creare degli spettacoli e delle situazioni di quel tipo, insomma, senza bisogno di drogarsi o di ubriacarsi. Da internet sono venute fuori anche delle professionalità nuove nell'ambito dell'erotismo, come le ragazze che offrono i propri servizi, i propri spettacoli attraverso le webcam. Questo rapporto della webcam girl può diventare effettivamente morboso. Questo è uno dei documentari che non sono mai riuscito a fare. Lo farà, prima o dopo lo farà. Sì, perché poi queste ragazze hanno sempre una doppia vita, non vogliono far vedere niente, non vogliono far capire. Però effettivamente il rapporto diventa un po' morboso quando una persona a casa sta mezz'ora, un'ora attaccata a internet, magari comincia a indagare a modo suo nella vita di queste persone, cerca di avere di più, e quindi possono sfociare anche delle nuove forme di criminalità. Senta, ma il sesso è ancora una trasgressione o no? Ma il sesso è sempre stato un gioco, secondo me, e dovrebbe rimanere un gioco. Diventa trasgressione forse quando si vogliono fare esperienze di orgia o di scambi di coppia, no? In quel senso. Però anche quelle situazioni che ho raccontato in alcuni miei documentari si possono fare a vari livelli, cioè a livelli mentali, alti, culturali, o a livelli beceri, bassi e marci. Davide da Treviso, buongiorno. Buongiorno, dica. Ma allora volevo soltanto dare una mia esperienza. Fondamentalmente io, vabbè, al di là del non essere assolutamente una persona bigotta e ma non fare uso, diciamo, di case chiuse o altro, ho fatto 23 anni all'estero, dove in paesi del nord Europa soprattutto, dove con l'azienda dove lavoravo ho girato un po' tutto il nord Europa, dove soprattutto i paesi dove la prostituzione è legalizzata, Austria, Germania e così via. Da 5 anni seguo il mercato italiano e ogni tanto noi, per motivi proprio di esigenza dell'azienda, facciamo corsi di qualche giorno piuttosto di una settimana in Austria o in Germania. Ma che azienda, lei in che azienda lavora? Ma lavoro in un'azienda praticamente nel mondo dell'idraulica, tanto per capirci. E la preferisco non dirlo, ecco. Ma non per altro, più che altro perché non c'entriamo niente noi con questo mondo qui, però no, volevo dire un'altra cosa, che è un'esperienza personale. Sì, un 25-30% delle persone che vengono ai nostri corsi, perché ci chiedono poi proprio senza pudore dove sono le case chiuse, che naturalmente, vabbè, per ovvi motivi sono pubblicizzate, basta leggere i cartelli. Sono aperte, non chiuse lì. sì, vabbè, sanno non, magari non sapendo la lingua, eccetera, eccetera. Vabbè, ho capito. Insomma, dice, no, è un problema che si affronta senza nessuna reticenza, questo ci sta dicendo. Grazie. Lino da Genova? Buongiorno. Buongiorno, dica. Non vorrei ripetere, chiudo la radio prima di tutto. Com'è? Ah, sì, la radio. È meglio, sì, sì. Certo. Ci sentiamo in diretta sulla sua radio. Niente, volevo dire che come al solito qui in Italia non si vuole risolvere, io penso non si vogliono risolvere i problemi, perché in altri paesi europei, che ho perso l'intervento precedente, ma adesso l'abbia già detto il signore. Ah, più o meno la stessa cosa, sì. Che a che punto ci sono le sexy shop, chiamate caso di tolleranza, chiamatele come volete. Sì. In alcune addirittura avevo letto che c'è delle macchinette con dei tetogrammi e uno sceglie la prestazione, paga per quella e tu rimani tutto tracciato e tutte pagano le tasse del signore, è come tutto gli altri lavoratori dipendenti. Va no, bene, grazie, e non ci Lino. Vuole niente di strano. Grazie Lino. 800, ripeto, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS naturalmente. Oltre a internet, una cosa che ha cambiato moltissimo il mercato del sesso è stato l'arrivo del Viagra, che è arrivato in Italia nel 98. Oggi più o meno se ne vendono, queste sono le ultime statistiche, 7 milioni all'anno. Dunque, quindi è un mercato di vari milioni di euro spesi dagli italiani per continuare ad amare o comunque avere rapporti sessuali, diciamo. Ecco. L'arrivo del Viagra come ha cambiato il mercato, Mario? Beh, una cosa enorme dal punto di vista sociologico, antropologico, anche ha cambiato tutto ciò, voglio dire, l'uomo, no, fino a certo. X è uomo. Cioè è come se fosse nata, Pietrangelo, un'umanità inedita in qualche modo. Beh, quello ovviamente nell'epoca della tecnica è già di fatto una nuova idea di umanità. Temo però che questo trionfo del Viagra abbia avuto una conseguenza, che è stata quella di rendere artificioso l'eros, perché soltanto affidato non lo so. Insomma, non so se Mario non è d'accordo. No, non so, perché cioè, c'è gente che è felice su questa cosa. Oh. Sì, è un po' è felice, cioè, un po' triste, quindi mi affido all'antica parabola catanese quando apparve il Viagra. Dice, ma che cos'è sta cosa? È una pillola che fa, insomma, dà virilità per 2, 3, 4 ore. Ah, ho capito, un calmante qui. Scusa, il mercato è enorme, questo è carino. 180 milioni in Italia. Sì. Quel mercato là, 5 miliardi e mezzo, tutti affidati al calmante mondiale, al calmante. Cosa... comunque ritornando, diceva anche il nostro amico al telefono, ritornando a calcolare quanto vale il PIL del sesso, bisognerebbe anche aggiungere gli alberghi a ore, il turismo sessuale, le app per gli appuntamenti a sfondo erotico, sex shop. Alberto, il nostro ospite, è un imprenditore che ha inventato Sex is Now, una catena di sexy shop automatici. Cioè, ci spiega come funzionano questi punti vendita? Allora, i punti vendita sono stati fatti 5 anni fa perché sentivamo l'esigenza di un po' di privacy nell'ingresso di un sexy shop. Certo. Molto spesso le persone si mettono in imbarazzo, poi magari vanno all'estero e comprano tutto, ma quindi... a Roma è un problema. Allora abbiamo creato questi negozi totalmente chiusi, sì, che per entrare bisogna avere una tessera che dimostri l'età, che sia una carta di credito, una tessera sanitaria o quantunque. Quindi, per capire, quindi una volta che si è dentro nessun altro può avere accesso, è così? Perché c'è un semaforo rosso che... Quindi uno per volta. No, anche due, anche tre, sì, per volta. Ah, per volta, persone, sì, d'accordo, persone, ok, però, d'accordo. Però si entra praticamente, è chiuso e lei compra come comprerebbe una bottiglietta d'acqua qualunque tipo di gadget. Sì. Per cui poi la macchina dà il resto, lei sceglie, esce e se c'è un'altra persona entra un'altra persona. Ecco, ma i vetri da fuori sono oscurati? Sì, assolutamente. Per cui uno non vede chi c'è dentro? Mai. Ecco, ma in media quanto costano i vostri prodotti? C'è una media? Ma i prezzi di mercato dell'online sì, uguale, gli stessi gadget si possono trovare. Solo che invece normali, che online uno li prende subito, diciamo, esatto, questa è la differenza. Prende subito, lo compra, esce se paga. Vuole lo usa oppure e paga da... come paga? Paga con acqua minerale, lei mette una banconota a seconda dell'importo. Ah, col cash, paga col cash. Solo cash perché la carta di credito è tracciabile. Tracciabile. Ecco, i vostri clienti chi sono? Più uomini o più donne? Dunque, qui è un discorso molto lungo perché... Mediamente, insomma. Uomini, donne, poi dipende dalle zone perché... Ah, cambiano a seconda delle zone? Sì, cambiano a seconda delle zone, perché è totalmente differente dal... Cioè in certe zone più donne e in altre zone più uomini? No, mediamente le donne sì entrano, ma entrano più gli uomini magari accompagnati dalle donne. Ho capito. In una certa zona di Roma magari entrano solo uomini. I giovani non hanno problemi. Senta, no. Lei ho letto che li chiama tutti questi suoi clienti, li chiama clienti ormonali. No. Allora, noi il nostro concorrente è praticamente online. Sì. Che uno compra su internet quello che vuole, è un sexy shop normale dove lei entra, sceglie, viene consigliata. L'online di solito a volte può anche avere dei prezzi migliori. Sì, però la consegna c'è il tempo. C'è l'handicap, sì, della consegna dopo due giorni. Cosa... Allora, noi consideriamo acquisto ormonale. Ah, ecco, acquisto. Mi cioè, piace. Io ho un'esigenza e quindi va bene. Mi serve per stasera, non posso... Va bene, senta, ma... Mi vergogno di esatto. Ma quando siete partiti con questo business? 5 anni fa. Ma come vi è venuta l'idea? Ci è venuta perché facendo un po' un'analisi sociologica, sappiamo quali sono le ipocrisie della gente comune, e tutti quando si andava all'estero compravano gli oggetti, era per un amico, devo fare l'acerbato, voglio fare uno scherzo a qualcuno. Vabbè, avete capito che c'era il mercato, diciamo. C'era il mercato. E il giro d'affari di un negozio medio quant'è? Dipende, non è alto, non è abbastanza basso, però il vantaggio di questo business è che praticamente non ha costi, certo. Lei paga l'affitto di un locale fuori mano, non in prima strada, e poi c'ha solo macchine, non ha dipendenti, non ha niente. Quindi i margini sono interessanti. Quindi. Sì. Ma la crisi l'avete sentita o no? Sì. Ah sì? Sì? Da un anno e mezzo abbiamo sentito un po' la crisi, perché anche per i giochi... Anche dagli ormonali è arrivata la crisi. Esatto. Giuseppe Balsamo da Napoli ha una ricetta per rialzare il PIL e dice: c'è una ricetta semplice, possiamo fare semplicemente più sesso, visto che il discorso del PIL, la felicità è come dire sposata alla crescita economica anche, quindi non ha tutti i torti in alcune cose. Vabbè, e per chiudere chiudiamo con Gino Paoli, Albergo Aure. Io lavoro al bar di un Albergo Aure, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali, ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. M'han chiesto una stanza, io gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero 3. E ho messo nel letto i lenzuoli puliti, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi di quel paradiso. E ho chiuso la porta sul loro sorriso. Mix 24. E per chiudere l'argomento che abbiamo trattato, leggo l'SMS di Maria che dice: Maria dice: ok, accetto l'opinione degli altri, ma lascio il sesso a pagamento a chi si accontenta di poco. Questa è l'opinione di Maria. Pietrangelo, che cosa ci fai sentire oggi? They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. It was there and he felt alone. and wished that he got straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember it well. Stopped into an old hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. E allora, Pietrangelo, lunedì? Questo lunedì la fermata oggi in metropolitana era come una banchina al porto di chissà quale grande mare. Lui sente il ticchettio di tutti gli orologi, tutti insieme, lei invece da tutt'altra parte. Se ne va via per i camminamenti delle scale mobili, lui ad aspettare la svolta del destino, lei invece a dimenticarla, la svolta del destino. Ha chiamato Corto Maltese, ha voluto questo brano per lei, solo per lei, non si sa chi, però con un messaggio: sono sempre a Port Said. Got out of bed, put his clothes back on, pushed back the blind, found a note she'd left behind, to which he just not relate. C'è una risposta a Maria su Twitter. Ah sì, cosa dicono? Amilcare dice che dite a Maria che si accontenta, gode. Quindi, vabbè, insomma, sì, insomma, vabbè. Amilcare. Io sto con Maria. Penso che abbia ragione, dire, Maria. Pure io. Ah, vabbè. Pure io. Vabbè, senti, vabbè, allora vabbè, io tanto capita, tot capita, tot sentenza. Allora, Mario, nella pentola della politica, che cosa capita questa settimana? Beh, un sacco di roba, ah. Vai. Questo è un pezzo che mi piace tanto, possiamo farlo pure andare un po', no? Adesso, dai. Stereophonics, comunque. Maybe Tomorrow. Beh, ha una bella voce, eh. Senti, bellissima. Che bello. Dovete vedere la faccia di Minoli quando è convinto. Senti, senti. Bene. Bella, vero? No, è bella, è bella, è bella. Allora, Giovanni, che cosa succede? Noi ogni lunedì cerchiamo di dare un, quantomeno la traiettoria di quella che sarà la settimana. È molto, sì, interessante in realtà, non fatta di momenti. Tanto domenica si vota, appunto, il momento politico più importante per noi, ma comunque con una certa rilevanza anche per vedere qual è lo stato di salute, diciamo, del governo Renzi, perché comunque è un test. Tu dici che è un test anche sul governo. È un test sul governo, ma naturalmente non ha relativo. Sì, non ha l'importanza, diciamo, che poteva avere, che ne dobbiamo so. Dobbiamo decidere quando... che le elezioni locali sono elezioni locali. Io sono d'accordo, però insomma non si può neanche far finta che non esiste il tema. Cioè, No, lo so, però diciamo, è un test. Fatto culturale quello, sì, di abituarsi a chiamare le cose e valutare per me che sono. Comunque vada, che vinca o che perda, il governo sta là, punto. Non c'è dubbio. Cioè, questa è, diciamo, secondo me, la cultura da mettere sul paese. Penso anch'io. E dicevo, quindi ci abbiamo, noi in Italia abbiamo il 5, queste elezioni sono molto, molto importanti, quindi un voto amministrativo, grandi città, Roma, Milano, Napoli, Torino e altri ancora. I mercati oggi sono chiusi negli Stati Uniti, c'è il Memorial Day e anche nel Regno Unito. Oggi l'Istat dà i prezzi alla produzione e vedremo che effetto ha ancora tutta la questione dei prezzi energetici. Vedevo adesso i dati tedeschi, sono appena usciti, sono molto interessanti perché c'è stato un crollo dei prezzi all'importazione, quindi ancora si sente, diciamo, l'effetto del prezzo basso sulle materie prime, certo, energetiche. Venerdì prossimo, giornata importante, escono i dati sull'occupazione negli Stati Uniti e saranno probabilmente il suono di campana per vedere se a giugno matura l'ipotesi per ora di un rialzo dei tassi. Se fanno più di 165.000 posti, che è la stima più o meno che fanno gli analisti in questo momento, il rialzo dei tassi diventa abbastanza concreto. In caso contrario, rinvieranno ancora la decisione. Bisognerebbe spiegare perché c'è questo rapporto tra il rialzo dei tassi e l'aumento perché dei posti di lavoro. Perché le condizioni del mercato sono migliori, quindi il denaro si può dare a prestito a condizioni, diciamo, un po' più alte, in modo che i margini si aumentino e l'economia non ha bisogno di tutti gli stimoli di cui ha bisogno adesso, per esempio, quella europea, perché va da sola. Cioè, il tema vero è che tassi bassissimi, con margini ridottissimi, eccetera, sono un po'. Margini per le banche. Margini per le banche, certamente. Sono un mercato drogato, parliamoci chiaro, no? E quando tu gli dai a uno. Cioè, queste povere banche bisogna che guadagnino un po'. Eh sì, ma stanno messi male, guarda che hanno i margini ridottissimi. Oggi fare il banchiere è un mestiere molto difficile. Per chiudere, mercoledì e venerdì escono i numeri della manifattura e dei servizi, sempre negli Stati Uniti. Si riunisce il board della BCE a Vienna a metà settimana. Cosa decideranno? Niente, perché le condizioni europee sono molto diverse da quelle degli Stati Uniti. La crescita bassa, a macchia di leopardo, l'inflazione bassissima, quasi deflazione, quindi continuerà la politica di Draghi, vediamo, magari cambiano un po' negli acquisti. Resta il fatto che leggo dei bonus per i banchieri che non sono proprio da lavoratori di miniera. È un altro film, infatti su questo si può discutere, anche se io non sono per il salary cap. In ogni caso, i margini oggi di intermediazione per le banche sono... Povere banche, dai, ridottissimi. Salamino! Servizio pubblico, cercasi servizio pubblico e non solo nell'informazione, Giovanni, ma anche nella formazione, nella trasmissione dei saperi, nella custodia del patrimonio di immaginazione e di cultura. E servizio pubblico sono le librerie. Certamente. L'unica libreria di Taormina sta per chiudere. Località turistica più famosa del sud, la storica tappa del Grand Tour, la probabile sede del prossimo G7, resterà senza libri. Ne dà notizia oggi, in prima pagina, il Corriere della Sera, con un articolo di Aldo Cazzullo che dice: purtroppo Taormina non è un caso isolato, le librerie indipendenti soffrono e chiudono in tutta Italia. Vorrei ricordare come intorno a Montecitorio, a Roma, dove ha sede il Parlamento italiano, ce n'erano 4 di librerie. Sono state chiuse nell'indifferenza di tutti, del pubblico e delle istituzioni. Una delle 4 ha riaperto coraggiosamente, aiutandosi con l'appoggio di una galleria d'arte privata. Ma non c'è quartiere in ogni città e non c'è città in Italia che non veda abbassare le saracinesche di quelle che non sono solo botteghe commerciali, ma sono avamposti dello spirito critico, della libertà e della crescita. Sono le librerie come le caserme dei carabinieri, sono come le parrocchie, sono come il pronto soccorso, sono insomma servizio pubblico. E ben poco fa la politica nella battaglia sempre più urgente in difesa delle librerie. Lunedì scorso, vi racconto, a Palermo, sono stato accompagnato in un bistrò bello, accogliente, allegro, pieno di clienti, eppure c'era un forte eppure. Era stato quel bistrò l'antica libreria Flaccovia ai Quattro Canti e, vi dico la verità, mi si è chiuso lo stomaco, sono andato via. Sabato mattina, passeggiando per Verona, mi sono ritrovato davanti a quel monumento qual è la Guelfi e Barbato, la libreria storica, magnifica, nell'insegna e nella vetrina, dove però non ci sono più i volumi, i libri, le pagine immortali, ma mutande, Mario, sottane e calze. Forte, hai visto? E Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale della Rizzoli, con molta simpatia rispetto a questa idea del mutatis, mutandi dell'editoria, mi ha spiegato che comunque qualcosa c'è, perché comunque questa lingerie seduce, promette, sostiene, dà forma al desiderio e poi in fondo si sfoglia. Niente vitti, niente saci, Saccio Sulu, cade piaccio. Posso dire una Mario, cosa? Mario, devo fare una domanda io. Oh signore, aspetta, me ne vado. Che ci fa un nostro ascoltatore. Me ne vado, dice, allaccio le cinture. Ma sai Mario Secchi perché ci sono pochi banchieri? Perché è un lavoro durissimo. Lo so. E si guadagna poco. Sì, è così. È così, poveri sì. Banchieri. I bancari non guadagnano niente, li stanno licenziando. No, i banchieri, stiamo parlando di banchieri. I banchieri, guarda, se tu levi un po' di top ma manager. Ma intanto ci sono dei banchieri o sono tutti bancari? Ma ci sono, dai. Ci sono, sì, vabbè, vabbè, facciamo i nomi. Voglio ma... dire, Ma è difficile trovare. Vabbè, fammi un ultimo bolla. No, volevo dire che quasi nel 10% delle famiglie. Che, scusa? Quasi nel 10% delle famiglie italiane non c'è neanche un libro in casa. È solo il 42% degli italiani ha letto un libro nell'ultimo anno. Cioè, Pietrangelo fa bene a fare queste. Certo. No, è una partita disperata. Però l'accordo che c'è stato fra il Ministero della Cultura, il Ministero dei Beni Culturali e le televisioni questo tema potrebbe aprire una finestra, certo, diciamoglielo a Cairo che vuole essere servizio pubblico, sì. Forza Cairo, fai una trasmissione di... chiama noi canzoniere. Acqua soltanto, acqua d'ogni parte, e le tavole aride e contorte. Acqua soltanto, acqua d'ogni parte, non una goccia per la nostra arsura. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, sms, pubblicità. Mix 24. La figura senza dubbio più rappresentativa anche per la funzione, anche e soprattutto per la funzione e per il suo per la carica di presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, era il Tobagi Walter. Così Marco Barbone, 22 anni, figlio della Milano Bene, al processo per la morte di Walter Tobagi, ucciso il 28 maggio del 1980 dai terroristi della Brigata 28 marzo. Nel sommesso agghiacciante orrore della descrizione della vittima prescelta c'è anche la storia di una morte annunciata. Tobagi, 33 anni, scrittore, cronista dell'Avvenire e dell'Avanti, poi inviato del Corriere e sindacalista, si è sempre battuto contro il terrorismo con tenacia e coraggio. Perché Tobagi? La forza delle emozioni, l'onestà degli interrogativi, la verità dei documenti qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mario, sì. C'è la bolla ancora? Sì. Ci mancava da tanto. Era un po', tanto che non lo mettevo. Adesso andiamo un po'. Allora, perché l'inno della vecchia Unione Sovietica? Ma insomma, che pure, insomma, per Russia. Perché insomma, il game changer, quello che ha cambiato veramente il gioco nella guerra del Medio Oriente, in Siria e in Iraq, è indubbiamente la Russia di Vladimir Putin. È cominciata la fase decisiva di cui noi abbiamo raccontato più volte su Mix 24 per la riconquista della città di Fallujah. È a 50-60 km da Baghdad, era stata presa dall'ISIS nel gennaio del 2014, sembrava inespugnabile, e in queste ore si sta combattendo dentro la città per eliminare i miliziani di ISIS. Una vittoria a Fallujah probabilmente segna la sconfitta, non dico definitiva, ma quasi, dell'ISIS. E questa sconfitta, che appariva impossibile, è stata possibile, solo bisogna dire la verità, grazie all'impegno delle truppe di Mosca. Esatto. Questo è una lezione strategica. Giovanni da Milano per il canzoniere, rapidissimo. Sì, la ballata del vecchio marinaio di Seymour Taylor Coleridge. Giusto. Bravissimo. Bravo. Complimenti. Grazie. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. BMJ maggio 2016. Effetti sulla mortalità della conservazione o meno della linea dai 5 ai 40 anni. Qui si è voluto vedere qual è, diciamo, la traiettoria del nostro peso nell'effetto sulla mortalità. E allora sono stati studiati attentamente oltre un centinaio tra uomini e donne a cui è stato chiesto di ricordare il proprio corpo e ricordare che linea avesse nelle varie età della vita e segnatamente a 5, 10, 20, 30 e 40 anni, per vedere proprio di disegnare una traiettoria di mortalità a seconda della linea. Varie categorie: magro stabile, uno cioè che rimaneva magro per tutte le età rilevate, o magro con aumento di peso moderato o elevato. Medio, cioè chi partiva già un po' tondarello, oppure medio con aumento di peso elevato durante la vita, o chi partiva rotondo assai, quindi grasso, e quelli stabili, oppure quelli che addirittura poi aumentavano di peso. Il magro stabile è il punto di riferimento per gli altri ed è evidente che è quello che muore di meno. Quindi, prima lezione vera, conservate il peso sempre, rimanete sempre con lo stesso, come dire, la stessa tendenza, perché è evidente che tra 5 e 40 anni guadagni peso, ma rimani, come dire, della stessa configurazione, perché già chi parte grasso va peggio e muore di più, a maggior ragione se aumenta poi ulteriormente a metà vita. Quindi la lezione finale è mantenersi, e quando si è raggiunto il peso definitivo intorno ai 18-20 anni, tenetevelo per tutta la vita. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ci propone? Oggi una canzone per chi monta, smonta e rimonta la vita discutendo in mezzo al traffico. Daniele Silvestri, Ma che discorsi. E poi con quello che succede in una storia come questa, non è che ti puoi chiedere se sia la strada giusta. Ad ogni anno, ogni semaforo che c'è. So che non coincidono le previsioni e l'esito, le obiezioni in merito, le immagino però, perché fermarsi? In radio c'è anche un pezzo che mi va. Ma che discorsi, scusa, la strada forse è chiusa, non si sa da dove viene, tanto meno dove va. Ci siamo persi, ma se tanto non hai fretta, amore, aspetta. Gira di qua, gira di qua.